Lo giorno se ne andava il laer bruno, toglieva gli animal che sono in terra dalle fatiche loro e io soluno. M'apparecchiava a sostener la guerra sì del camino e sì della pietate, che irritrarà la mente che non erra. O musa o alto ingegno ormai tate, o mente che scrivesti ciò ch'io vidi, qui si parrà la tua nobilitate. Io cominciai poeta volentieri, parlerei a quei due che insieme vanno e paionsi al vento esser leggeri. Ed elli a me, vedrai quando saranno più presso a noi, e tu a lor li priega per quell'amor che i mena, e quei verranno. Sittosto come il vento a noi le piega, movi la voce, o anime affannate, venite a noi parlar, s'altri non niega. Quali colombe dal voler chiamate, con l'ali alzate e ferme al dolce nido, vengon per l'aer dal disio portate, cotali uscir della schiera ove dido, a noi venendo per l'aer maligno, sì forte fu l'affettuoso grido. O animal grazioso e benigno, che visitando vai per l'aer perso, noi che tignemmo il mondo di sanguigno, se fosse amico il re dell'universo, noi pregheremmo lui della tua pace, da cai pietà del nostro mal perverso. Di quel ch'udire che parlar ti piace, noi udiremo e parleremo a voi, mentre che il vento come fa si tace. Sei della terra dove è nata fuori, sulla marina dove il Po discende per aver pace, coi sequaci suoi. Amor che al cor gentil ratto s'aprende, prese costui della bella persona che mi fu tolta e il modo ancor m'offende. Amor ch'a nullo amato amar perdona, mi prese del costui piacer sì forte che come vedi ancor non m'abbandona. Amor condusse noi ad una morte. Caino attende che in vita ci spense. Queste parole d'allor ci fuor porte, poscia ch'intesi quell'anime offense, chinai il viso e tanto il tenni basso, finché il poeta mi disse: che pense? Quando risposi cominciai: oh lasso, quanti dolci pensier, quanto disio menò costoro al doloroso passo. Poi mi rivolsi a loro e parlai io, e cominciai: Francesca, i tuoi martiri a lagrimar mi fanno tristo e pio, ma dimmi al tempo di dolci sospiri, a che e come concedette amore che conosceste i dubbiosi disiri, e quella a me nullo è maggior dolore che ricordarsi del tempo felice nella miseria, e ciò sa il tuo dottore, ma sa conoscer la prima radice di nostro amor tu hai con tanto affetto. Dirò come colui che piange e dice: noi leggiavamo un giorno per deletto di Lancialotto come amor lo strinse, soli eravamo e senza alcun sospetto, per più fiate gli occhi ci sospinse quella lettura e scolorocci il viso, ma solo un punto fu quel che ci vinse, quando leggemmo il disiato riso, esser basciato da cotanto amante, questi che mai da me non fie diviso, la bocca mi basciò tutto tremante. Galeotto fu il libro, e chi lo scrisse quel giorno più non vi leggemmo avante. Mentre che l'un spirito questo disse, l'altro piangea, sì che di pietade io venni meno, sì com'io morisse e caddi come corpo morto cade. Non era ancor di là nesso arrivato quando noi mettemmo per un bosco che da un sentiero era segnato. Non fronda verde, ma di color fosco. Non ramischietti, ma nodosi e involti. Non pomi veran, ma stecchi con tosco. Io sentia d'ogni parte tra guai e non vedea persona che il facesse, però tutto smarrito m'arrestai. Credi io che il credette ch'io credesse che tanti voci uscisser di quei bronchi da gente che per noi si nascondesse. Però disse il maestro: se tu tronchi qualche fraschetta d'una d'ste piante, li pensier ch'ai si faran tutti monchi. Allora porsi io la mano un poco avante e colsi un ramicel da un gran pruno e il tronco suo gridò: perché da poi che fatto fu di sangue bruno cominciò a gridar: perché essere la tua man più pia se stati fossimo anime di serpi. Come d'un stizzo verde carso sia, dall'un di capi che dall'altro geme, cigolà per vento che va via, sì dalla scheggia rotta uscia insieme, parole e sangue, un dio lasciai la cima a cadere e stetti come l'om che teme. Se li avesse potuto saper prima, rispose il savio mio, anima lesa, ciò che ha veduto pur con la mia rima non averebbe in te la man distesa. Ma la cosa incredibile mi fece indurlo ad opra che a me stesso pesa. Ma dilli chi tu fosti, sì che invece d'alcuna menda tua fama rinfreschi nel mondo su dove tornarli lece. E il tronco, io son colui che tennambo le chiavi del cuor di Federico e che le volsi serrando e disserrando sì soavi che dal segreto suo quasi ognuno tolsi. Fede portai al ghio tanto che io ne perdea i sonni e i polsi. La meretrice che mai dallo spizio di Cesare non torse gli occhi putti, morte comune delle corti vizio, infiammò contra me gli animi tutti e gli infiammati infiammarsi l'augusto che ira di onor tornaro in tristi lutti. L'animo mio per te sdegnoso gusto, credendo col morir fuggir di sdegno, ingiusto fece me contra me giusto, per le nove radici d'esto legno, vi giuro che giammai non ruppi fede al mio signor che fu d'onor sì degno. E se di voi alcun nel mondo riete, conforti la memoria mia che giace ancor del colpo che invidia li diede. Un poco attese poi, da che il si tace, disse il poeta a me, non perder l'ora, ma parla e chiedi lui se più ti piace. Ond'io a lui dimanda il tuo ancora di quel che credi che a me soddisfaccia, ch'io non potrei tanta pietà m'accora. Perciò ricominciò: se l'om ti faccia liberamente ciò che il tuo dir priega, ispirto incarcerato, ancor ti piaccia di dirne come l'anima si lega in questi nocchi e dinne se tu poi s'alcuna mai da tai membra si spiega. Allor soffiò lo tronco forte e poi si convertì quel vento in cotal voce: brevemente sarà risposto a voi quando si parte l'anima feroce dal corpo della stessa si è divelta, Minos la manda alla settima foce. Cade in la selva e non gli è parte scelta, ma là dove fortuna la balestra. Qui vi germoglia come grandi spelta. Surge in vermena e in pianta silvestra. L'arpie, pascendo poi delle sue foglie, fanno dolore e al dolor fenestra. Come altre verremmo per nostre spoglie, ma non però qualcuna si rivesta, che non è giusto aver ciò con si toglie. Qui le strascineremo e per la mesta selva saranno i nostri corpi appesi, ciascuno al prù dell'ombra sua molesta. Già eravam dalla selva rimossi, tanto ch'io non avrei visto dov'era, perché io indietro rivolto mi fossi, quando incontrammo d'anime una schiera che venia lungo l'argine, ciascuna ci riguardava come suol da sera, guardan l'un l'altro sotto nova luna, e sì ver noi aguzzavan le ciglia, come il vecchio sartor fa nella cruna. Così adocchiato da cotal famiglia, fui conosciuto da un che mi prese per lo lembo e gridò: «Qual maraviglia!» E io, quando il suo braccio a me distese, ficcai l'occhio per lo cotto aspetto, sì che il viso abbrusciato non diffese la conoscenza sua al mio intelletto, e chinando la mano alla sua faccia disposi: «Siete voi qui, ser Brunetto?» E quelli: «O figliuol mio, non ti dispiaccia, se Brunetto latino un poco teco, ritorna indietro e lascia andar la traccia». Io dissi a lui: «Quanto posso ve in preco, e se volete che con voi m'asseggia, farò, se piace, a costui ch'io vo seco». Io non osava scender della strada per andar par di lui, ma capo chino tenea, com'om che reverente vada. E cominciò: «Qual fortuna o destino, anzi l'ultimo dì è qua giù ti mena, e chi è questi che mostra il camino?» «Lassù di sopra, in la vita serena», risposi io lui, «mi smarrì in una valle, avante che l'età mia fosse piena. Pur ier mattina li volsi le spalle, questi m'apparse tornand'io in quella, e reducemi a ca per questo calle». Ed elli a me: «Se tu segui tua stella, non puoi fallare a glorioso porto, se ben m'accorsi nella vita bella. E s'io non fosse sì per tempo morto, veggendo il cielo a te così benigno, dato t'avrei all'opera conforto. Se fosse tutto pieno il mio dimando», risposi io lui, «voi non saresti ancora dall'umana natura posto in bando, che in la mente m'è fitta e or m'acora la cara e buona immagine paterna di voi, quando nel mondo ad ora m'insegnavate come l'uom s'eterna, e quanto l'abbia ingrato mentre io scrivo, convien che nella mia lingua si scerna». Né pertanto di me in parlando vommi con ser Brunetto, e dimando chi sono li suoi compagni più noti e più sommi. Ed elli a me: «Saper d'alcuno è buono, degli altri fie laudabile tacerci, che il tempo seria corto a tanto sono. Insomma, sappi che tutti fuorchèrci e litterati grandi e di gran fama ad un peccato medesimo al mondo lerci. Prisciane sen va con quella turba grama, e Francesco da Corso anche vedervi, s'avessi avuto di tal tigna brama, colui potei che dal servo di servi fu trasmutato d'arno in bacchiglione, dove lasciò li malprotesi nervi». Poi si rivolse e parve di coloro che correno a Verona il drappo verde per la campagna, e parve di costoro: «Quelli che vince, non colui che perde». «Gioveggia per mezz'ul perdere nulla, com'io vidun così non si pertugia, rotto dal mento in fin dove si trulla». Tra le gambe pendeva l'eminugia, la corata pareva il tristo sacco che merda fa di quel che si trangugia. Mentre che tutto in lui veder m'attacco, guardommi e con le man s'aperse il petto dicendo: «Vedi com'io mi dilacco, vedi com'è storpiato Macometto, dinanzi a me se ne van piangendo lì, fesso nel vento dal mento al ciuffetto, e tutti gli altri che tu vedi qui, seminator di scandalo e di scisma, fuor vivi, e però son fessi così». Un altro che forato aveva la gola e tronco il naso infin sotto le ciglia e non avea manco un'orecchia sola, ristato a riguardar per maraviglia, con gli altri innanzi agli altri aprì la canna, che era di fuor d'ogni parte vermiglia, e disse: «O tu, qui colpa non condanna, e qui io vidi in su terra latina, se troppa simiglianza non mi inganna, rimembriti di Pier da Medicina». Oh, quanto mi parea sbigottito, con la lingua tagliata nella strozza, curio che a dir fu così ardito. E un che avea l'una e l'altra mammozza, levando i moncherin per l'aura fosca, sì che il sangue facea la faccia sozza, gridò: «Ricorderati anco del Mosca, che disse l'asso, capuà cosa fatta, che fu il malseme per la gente tosca!» E io gli aggiunsi: «È morte di sua schiatta!» Perché gli accumulando duol con duolo, s'ingio come persona trista e matta. Ma io rimasi a riguardar lo stuolo e vidi cosa ch'io avrei paura, senza più prova di contarla solo. Se non che coscienza m'assicura la buona compagnia che l'om francheggia sotto l'albergo del sentirsi pura. Io vidi certo e ancor par che il veggia un busto senza capo andar siccome andavan gli altri della trista greggia. E il capo tronco tenea per le chiome, preso con mano a guisa di lanterna, e quei mirava noi e dicea: «Oh me!» Di sé facea a se stesso lucerna, ed eran due in uno e uno in due, come esser può, quei sa che si governa. Quando diritto al piede del ponte fue, levò il braccialto con tutta la testa per appressarne le parole sue che fuoro: «Or vedi la pena molesta, tu che spirando vai veggendo i morti, vedi s'alcuna è grande come questa? E perché tu di me novella porti, sappi ch'io son Beltran dal Borgno, quelli che diedi a Re Giove nei malconforti. Io feci il padre e il figlio in Serubelli, a Chitofel non fe più d'Assalone e di David con malvagi punzelli, perché io partì così giunte persone. Partito porto il mio cerebro lasso dal suo principio, che in questo troncone così soserva in me. Lo contrapasso». Se io avessi le rime aspre e chiocce, come si converrebbe al tristo buco sovra il qual pontan tutte l'altre rocce, io premerei del mio concetto il suco più pienamente, ma perché io non l'abbo, non senza tema a dicer mi conduco, che non è impresa da pigliare a gabbo, descriver fondo a tutto l'universo, né da lingua che chiami mammo o babbo, ma quelle donne aiutino il mio verso, che aiutarono Anfioni a chiuder Tebe, sì che dal fatto il dir non sia diverso. O soprattutto, malcreata plebe, che stai nel loco onde il parlare è duro, mai state foste quei pecore o zebe. E come a gracidarsi sta la rana col muso fuor dell'acqua quando sogna di spigolar sovente la villana lividi. sì laddove appar vergogna. Era l'ombre dolenti nella ghiaccia, mettendo i denti in nota di cicogna. Ditemi voi che si stringete i petti, diss'io. Chi siete? E quei piegare colli. E poi che berli visi a me retti, gli occhi lor che dan pria pur dentro molli, gocciar su per le labbra e il gelo strinse le lagrime tra i sierni sprolli. Col legno legno spranga mai non cinse forte, così ondei come due becchi cozzaro insieme, tant'ira li vinse. Poi vidi mille visi cagnazzi fatti per freddo, onde m'inven ribrezzo, e verrà sempre di gelati guazzi. E mentre ch'andavamo in ver lo mezzo, al quale ogni gravezza si rauna, e io tremava nell'eterno rezzo, se voler fu destino o fortuna, non so, ma passeggiando tra le teste forte percossi il piè nel viso d'una. Piangendo mi sgridò, perché mi peste? Se tu non vieni a crescere la vendetta di Montaperti, perché mi moleste? E io, maestro mio, or qui m'aspetta, sì ch'io esca d'un dubbio, per costui poi mi farai quantunque vorrai fretta. Lo duca stette e io dissi a colui che bestemmiava duramente ancora: qual sei tu che così rampogna altrui? Or tu che sei che vai per l'antenora percotendo rispose altrui le gote, sì che se fossi vivo troppo fora. Vivo son io, e caro esser ti puote, fu mia risposta, se dimandi fama, ch'io metta il nome tuo tra l'altre note. Ed egli a me: del contrario, o io brama, levati quinci e non mi dar più lagna, che mal sai losingar per questa lama. Allora lo presi per la coticagna e dissi: e il converrà che tutti i nomi, o che capel qui su non ti rimagna. Onde egli a me: perché tu mi dischiami, non ti dirò chi io sia, né mostrerò te se mi le fiate sul capo mi domi. Io avea già i capelli in mano volti e tratto li n'avea più d'una ciocca latrando lui con gli occhi in giù ricolti, quando un altro gridò: che hai tu bocca? Non ti basta sonar con le mascelle? Se tu non latri, qual diavol ti tocca? Ormai non vo, diss'io, che tu favelle, malvagio traditor, ch'a la tua onta io porterò di te vere novelle. Va via, disse, se ciò che tu vuoi conta, ma non tacer se tu di qua intreschi, di quei che ebbe ora la lingua così pronta. Il piange qui l'argento di Franceschi. Io vidi, potrai dir, quel da duera, laddove i peccatori stanno freschi. E canterò di quel secondo regno dove l'umano spirito si purga e di salire al ciel diventa degno. Ma qui la morta poesia resurga, o sante muse, poiché vostro sono, e qui Caliope alquanto surga, seguitando il mio canto con quel sono di cui le piche misere sentiro lo colpo tal che disperar perdono. L'anime che si fuor di me accorte per lo spirare ch'io era ancor vivo, meravigliando diventaro ismorte. E come a messagger che porto ulivo tragge la gente per udir novelle, e di calcar nessun si mostra schivo, così al viso mio s'affisser quelle anime fortunate tutte quante, quasi obliando dire a farsi belle. Io vidi una di loro trarsi avante per abbracciarmi con sì grande affetto che mosse me a farlo simigliante. Ombre vane, fuor che nell'aspetto, tre volte dietro a lei le mani avvinsi e tante mi tornar con nulla al petto.

a riveder la madre. Tal mi fec'io, ma non ha tanto insurgo, quand'iodo nomar se stesso il padre mio e degli altri miei miglior che mai rime d'amore usar dolci e leggiadre, e senza udire dir pensoso andai lunga fiata rimirando lui, né per lo foco in la piuma pressai. Poiché del riguardar pasciuto fui, tutto m'offersi pronto al suo servigio con l'affermar che fa credere altrui. Ed egli a me: tu lasci tal vestigio per quel chiodo in me tanto chiaro, che l'età non può torre né far vigio. Ma se le tue parole orver giuraro, dimmi che è cagion perché dimostri nel dire e nel guardar d'avermi caro. E io a lui li dolci detti vostri, che quanto durerà l'uso moderno, faranno cari ancora i loro inchiostri. O frate, disse, questi ch'io ti cerno col dito, e additò un spirito innanzi, fu miglior fabbro del parlar materno. Versi d'amore, prose di romanzi soverchio tutti, e lascia dirli stolti che quel di Lemosì credo un cavanzi. A voce più calver drizzan li volti, e così ferman sua opinione prima carte o ragion per lor s'ascolti. Così fer molti antichi di Guitone, di grido in grido pur lui dando pregio, finché l'ha vinto il ver con più persone. Or se tu hai sì ampio privilegio, che licito ti sia l'andare al chiostro nel quale Cristo abbate del collegio, falli per me un dir d'un pater nostro quanto bisogna a noi di questo mondo, dove poter peccar non è più nostro. Poi forse per dar loco altrui secondo che presso avea, disparve per lo foco, come per l'acqua il pesce andando al fondo. Io mi fei al mostrato innanzi un poco e dissi ch'al suo nome il mio disire apparecchiava grazioso loco. Ehi cominciò liberamente a dire: tam abelis vestre cortes de man, che non puos ni voglia vos cobrire, io sui arnau che plor e vau cantan, con siros vei l'espasada folor e vei jausen lo gioi che sper denan. Ara vos prec per aquella valor che vos guida al son dell'escalina, sovegna vos a temps de madolor. Poi s'ascose nel foco che li affina. Darotti un corollario ancor per grazia. Quelli canticamente poetaro, l'età di loro e il suo stato felice, forse in Parnaso e sto loco sognaro, cui fu innocente l'umana radice, qui primavera sempre ogni frutto, nettare questo di che ciascun dice. Io mi rivolsi indietro allora tutto ai miei poeti e vidi che con riso udito aveano l'ultimo costrutto. Poi alla bella donna tornai il viso. O sacrosante Virgine, se fami, freddi o vigilie mai per voi soffersi,

fitto legno venire e coronarmi delle foglie che la materia tu mi farai degno. Sì, rade volte, padre, se ne coglie, per trionfare o Cesare o poeta, colpa e vergogna delle umane voglie, che parturir letizia in sulla lieta, delfica deità dovria la fronda Penèia, quando altrui di sé ha seta. Poca favilla, gran fiamma seconda, forse di rietro a me con miglior voce si pregherà perché Cirra risponda. Dal centro al cerchio, sì, dal cerchio al centro, muovesi l'acqua in un rotondo vaso, secondo che percosso fuori o dentro nella mia mente, fe subito caso questo ch'io dico, sì come si tacque la gloriosa vita di Tommaso, per la similitudine che nacque del suo parlare e di quel di Beatrice, a cui sì cominciar di polui piacque, a costui fa mestieri e non vi dice, né con la voce né pensando ancora d'un altro vero andare alla radice. Diteli se la luce onde s'infiora vostra sostanza rimarrà con voi eternalmente, siccome ella è ora, e se rimane, dite come poi che sarete visibili rifatti, esser potrà ch'al veder non vi noi. Come da più letizia pinti e tratti, alla fiata quei che vanno a rota levan le voci e rallegrano gli atti, così all'orazion pronta e divota li santi cerchi mostrar nova gioia nel torneare e nella mira nota. Qual si lamenta perché qui si moia, per viver colassù non vide quivi lo re Frigerio della santa ploia, quell'uno e due e tre che sempre vive e regna sempre in tre, due, uno non circoscritto e tutto circoscrive, tre volte era cantato da ciascuno di quegli spirti con tal melodia ch'ad ogni emerto sarebbe giusto m'uno. Tanto mi parver subiti accorti, e l'uno e l'altro coro addicerammo che ben mostrar disio di corpi morti, forse non pur per lor, ma per le mamme, per li padri e per gli altri che fuor cari, anzi che fosser sempiterne fiamme, ed ecco intorno di chiarezza pari nascere un lustro sopra quel che v'era, per guisa d'orizzonte che rischiari, e sì come al salir di prima sera comincia per lo ciel nove parvenze, sì che la vista pare e non par vera. Parvemi lì novelle sussistenze cominciare a vedere e fare un giro di for dall'altre due circonferenze, ovvero sfavillar del santo spiro, come si fece subito e candente. Agli occhi miei che vinti non soffriro, ma Beatrice sì bella e sì ridente mi si mostrò che tra quelle vedute si vol lasciar che non seguir la mente, quindi ripreser gli occhi miei virtute a rilevarsi e vidimi traslato sol con mia donna in più alta salute. Ben m'accorsio ch'io era più levato per l'afocato riso della stella che mi parea più roggio che l'usato, con tutto il core e con quella favella che una in tutti a Dio feci olocausto, qual convenie sia la grazia novella, e non era anco del mio petto esausto l'ardor del sacrificio ch'io conobbi e solitare stato accetto e fausto che con tanto lucore tanto robbi ma parvero splendor dentro a due raggi ch'io dissi o Elios che sì li adobbi come distinta da minori e maggi lumi biancheggia tra i poli del mondo galassia sì che fa dubbiar ben saggi sì costellati tacean nel profondo Marte, quei rai, il venerabile segno che fan giunture di quadranti in tondo. Qui vince la memoria mia l'ingegno che quella croce lampeggiava a Cristo. Sì, chi non so trovar l'esempio degno, ma chi prende sua croce e segue Cristo ancor mi scusirà di quel ch'io lasso, vedendo in quell'albor balenar Cristo di corno in corno e tra la cima e il basso. Si movia in lumi scintillando forte nel congiungersi insieme nel trapasso, così si veggion qui diritte e torte, veloci e tarde, rinnovando vista le minuzie di corpi lunghe e corte muoversi per lo raggio onde si vista. Talvolta l'ombra che per sua difesa la gente con ingegno e arte acquista, e come giga e arpa in tempra tesa di molte corde fa dolce tintinno, a tal da cui la nota non è intesa, così dai lumi che lì m'apparinno s'accogliea per la croce una melode che mi rapiva senza intender l'inno. Ben m'accorsio che l'era d'alta lode, però che a me venia resurgi e vinci come a colui che non intende e ode. Io mi innamorava tanto quinci che fino a lì non fu alcuna cosa che mi legasse con sì dolci vinci. Forse la mia parola par tropposa, posponendo il piacer degli occhi belli nei qual mirando mio disio apposa. Ma chi sa vede che i vivi suggelli d'ogni bellezza più fanno più suso, e ch'io non m'era lì rivolto ad elli, e scusar pommi di quel ch'io m'accuso per escusarmi e vedermi dir vero che il piacer santo non è qui dischiuso, perché si fa montando più sincero. Benigna volontate in che si liqua sempre l'amor che drittamente spira, come cupidità fa nella iniqua, silenzio pose a quella dolce lira e fece quietar le sante corde che la destra del cielo alenta e tira. Quel qual è per li seren tranquilli e puri discorre ad or subito foco, movendo gli occhi che stavan sicuri, e pare stella che tramuti loco, se non che dalla parte onde s'accende nulla s'imperde, ed esso dura poco, tale dal corno che in destro si stende, al piè di quella croce corse un astro della costellazione che lì risplende, né si partì la gemma dal suo nastro, ma per la lista radial trascorse, che parve foco dietro ad alabastro. Si pia l'ombra d'anchise si porse, se fede merta nostra maggior musa, quando in Elisio del figlio s'accorse: o sanguis meuso super infusa, grazie a dei sicutivi cui bisunquam celi ianua reclusa. Così quel lume ond'io m'attesi a lui, poscia rivolsi alla mia donna il viso, e quinci e quindi stupefatto fui che dentro agli occhi suoi ardea un riso, tal ch'io pensai coi miei toccar lo fondo della mia gloria e del mio paradiso. O cara pieta, che sì t'insusi che come veggion le terrene menti non capere in triangol due ottusi, così vedi le cose contingenti, anzi che siano in sé mirando il punto a cui tutti li tempi son presenti. Mentre ch'io era Virgilio congiunto su per lo monte che l'anime cura, e descendendo nel mondo defunto, dittemi fuor di mia vita futura parole gravi, avegna ch'io mi senta ben tetragono e colpi di ventura, perché la voglia mia saria contenta d'intender qual fortuna mi sapressa, che saietta previsa ven più lenta. Così dissi io a quella luce stessa che pria m'avea parlato, e come volle Beatrice fu la mia voglia confessa. non per ambage in che la gente folle già s'inviscava pria che fosse anciso l'agnel di Dio che le peccata tolle, ma per chiare parole e con preciso latin rispose quello amor paterno, chiuso e parvente del suo proprio riso. La contingenza che fuor del quaterno della vostra materia non si stende, tutta è dipinta nel cospetto eterno. Necessità però quindi non prende, se non come dal viso in che si specchia, nave che per torrente giù discende. Da indi siccome vene ad orecchia, dolce armonia da organo mi vene, a vista il tempo che ti sa parecchia. Qual si partì Ippolito da Atene per la spietata e perfida Noverca, tal di Firenze partir ti conviene. Questo si vole e questo già si cerca, e tosto verrà fatto a chi ciò pensa, laddove Cristo tutto di si merca. La colpa seguirà la parte offensa in grido come sol, ma la vendetta fia testimonio al ver che la dispensa. Tu lascerai ogni cosa diletta più caramente, e questo è quelistrale che l'arco dell'essilio pria saietta. Tu proverai siccome sa di sale lo pane altrui, e siccome è d'urcalle lo scendere e il salir per l'altrui scale. E quel che più ti graverà alle spalle sarà la compagnia malvagia e scempia con la qual tu cadrai in questa valle, che tutta ingrata, tutta matta ed empia si farà contra te, ma poco appresso ella non tu n'avrà rossa la tempia. Di sua bestialitate il suo processo farà la prova, sì che a te fia bello averti fatto parte per te stesso. Ben veggio, padre mio, siccome sprona lo tempo verso me per colpo d'armi, tal che è più grave a chi più s'abbandona. Perché di provvidenza è buon chiomarmi, sì che se loco m'è tolto più caro, io non perdesse gli altri per miei carmi. Giù per lo mondo senza fine amaro, e per lo monte del cui bel cacume gli occhi della mia donna mi levaro, e poscia per lo ciel di lume in lume ho io appreso quel che sio il ridico, a molti fie sapor di forte agrume. E s'io al vero son timido amico, temo di perder viver tra coloro che questo tempo chiameranno antico. La luce in che ridea il mio tesoro, ch'io trovai lì, si fe pria corusca, quale raggio di sole specchio d'oro, indi rispose: coscienza fusca, o della propria, o dell'altrui vergogna, pur sentirà la tua parola brusca. Ma non di men rimossa ogni menzogna, tutta tua vision fa manifesta e lascia pur grattar dov'è la rogna. Che se la voce tua sarà molesta nel primo gusto, vital nutrimento lascerà poi quando sarà digesta. Questo tuo grido farà come vento che le più alte cime più percuote, e ciò non fa d'onor poco argomento. Io vidi in quella iovial facella lo sfavillar dell'amor che li era segnare agli occhi occhi miei nostra favella, che come auselli surti di ribera, quasi congratulando a lor pasture, fanno di sé or lunga or tonda schiera. Si dentro ai lumi sante creature volitando cantavano e facinsi or di or orelle in sue figure. Prima cantando a sua nota movinsi, poi diventando l'un di questi segni, un poco s'arrestavano e taciensi. O diva Pegasea, che l'ingegni fai gloriosi e rendili longevi, ed essi teco le cittate e i regni, illustrami di te, sicch'io rilevi le lor figure, com'io l'ho concette, paia tua possa, in questi versi brevi. Mostrarsi dunque in cinque volte sette vocali e consonanti, e io notai le parti sue come mi parver dette, diligite justitiam primai fu verbo e nome di tutto il dipinto, qui iudicati sterram forse zai poscia ne lemme del vocabol quinto rimasero ordinate, sì che Iove pareva argento lì d'oro distinto, e vidi scendere altre luci dove era il colmo delemme, e liquietarsi cantando, credo, il ben casselle move, poi come nel percuoter de cioccarsi sorgono innumerabili faville, onde gli stolti sogliono augurarsi, risurger parver quindi più di mille luci e salir, qual assai e qual poco, siccome il sol che l'accende sortille, e quietata ciascuna in suo loco, la testa e il collo d'un'aguglia vidi rappresentare a quel distinto foco. L'altra beatitudo che contenta pareva prima d'ingigliarsi a lemme, con poco moto seguì l'imprenta, o dolce stella, quali e quante gemme mi dimostraro che nostra giustizia effetto sia del ciel che tu ingemme. O dolce amor che di riso t'amanti, quanto parevi ardente in quei flailli, c'aveano spirito sol di pensier santi, poscia che i cari e i lucidi lapilli, ond'io vidi ingemmato il sesto lume, poser silenzio agli angelici squilli, udirmi parve un mormora di fiume che scende chiaro giù di pietra in pietra, mostrando l'ubertà del suo cacume, e come sono al collo della cetra prende sua forma, e sì come al pertugio della sampogna vento che penetra, così rimosso d'aspettare indugio quel murmurar, per l'aguglia salissi su per lo collo come fosse bugio, fecesi voce quivi, e quindi uscissi per lo suo becco in forma di parole, quale aspettava il core, ov'io le scrissi. La parte in me che vede pate il sole, nella guglie mortali incominciommi, or fisamente riguardar si vuole, perché di fuochi ond'io figura fommi, quelli onde l'occhio in testa mi scintilla, e di tutti lor gradi son li sommi. Colui che luce in mezzo per pupillo fu il cantor dello Spirito Santo, che l'arca traslatò di villa in villa. Or conosce il merto del suo canto, in questo affetto fu del suo consiglio per lo remunerar, che altrettanto di cinque che mi fan cerchio per ciglio. Colui che più al becco mi s'accosta, la vedovella consolò del figlio, ora conosce quanto caro costa non seguir Cristo per l'esperienza di questa dolce vita e della opposta. E quel che vedi nell'arco declivo, Guglielmo fu, cui quella terra plora, che piange Carlo, e Federico, vivo, ora conosce come si innamora. Lo ciel di giusto regge al sembiante, del suo fulgore il fa vedere ancora. Chi crederebbe giù nel mondo errante, che Rifeo troiano in questo tondo fosse la quinta delle luci sante? Ora conosce assai di quel che il mondo veder non può della divina grazia, benché sua vista non discerna il fondo, quale a lodetta che nair si spazia, prima cantando e poi tace contenta dell'ultima dolcezza che la sazia. Tal mi sembiò l'imago della imprenta dell'eterno piacere al cui disio ciascuna cosa quale l'è diventa. E avvegna ch'io fossi al dubbiar mio lì quasi vetro a lor color che l veste tempo aspettar facendo non patio ma della bocca che cose son queste. Regnum celorum, violenza pate, da caldo amore, da viva speranza, che vince la divina volontate, non a guisa che l'uomo all'om sobbranza, ma vince lei perché vuole esser vinta, e vinta vince con sua beninanza. Da qui incinanzi il mio veder fu maggio, che il parlar dica ch'a tal vista cede, e cede la memoria a tanto oltraggio. Qual è colui che sognando vede, e dopo il sogno la passione impressa rimane, e l'altro alla mente non riede, cotal son io che quasi tutta cessa mia visione, e ancor mi distilla nel core il dolce che nacque da essa, così la neve al sol si dissigilla, così al vento nelle foglie levi si perdea la sentenza di Sibilla. O somma luce che tanto ti levi dai concetti mortali alla mia mente, ripresta un poco di quel che parevi e fa la lingua mia tanto possente ch'una favilla sol della tua gloria possa lasciare alla futura gente, che per tornare alquanto a mia memoria e per sonare un poco in questi versi più si conceperà di tua vittoria. Nel suo profondo vidi che si interna legato con amore in un volume ciò che per l'universo si squaterna, sostanze, accidenti e lor costume quasi conflati insieme, per tal modo che ciò che io dico è un semplice lume, la forma universal di questo nodo credo ch'io vidi, perché più di largo dicendo questo mi sento ch'io godo nella profonda e chiara sussistenza dell'alto lume. Parvemi tre giri di tre colori e d'una continenza, e l'un dall'altro com'iri da iri parea riflesso, e il terzo parea foco che quinci e quindi qualmente si spiri. O luce eterna che solo in te sidi, sola t'intendi ed a te intelletta e intendente te ami e aridi, quella circulazione che si concetta parea in te come lume riflesso dagli occhi miei alquanto circospetta dentro da sé del suo colore stesso, mi parve pinta della nostra effigie, perché il mio viso in lei tant'era messo. All'alta fantasia qui manco possa, Ma già volgeva il mio disio e il velle, siccome rota che egualmente è mossa l'amor che muove il sole e l'altre stelle. Com'è il paradiso?